Son rimasti senza fiato, ora muoio dal contento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Qual trionfo, qual trionfo inaspettato. Me felice, o bel momento, amore, vedi con te. Rimasti senza fiato, ora muoio dal contento, dal contento. Guarda, guarda, guarda, guarda il mio talento, guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Signor, non più, bel mio, il bel nome di mia sposa, idol mio t'attende già. Il bel sì. Nome di tua sposa, come gioia al cuor mio. Contenta. Oh mio Signore, oh mio Signore, dolce nodo, presto, affettunato, che fai paghi? Andiamo. Per peso serviam memoria eterna, io sforzo la lantera, di più non ho che far. Amore per eterna, si ferma quel regno. Più bene.